come mai prendi la bicicletta? Ma guarda, la utilizzo spesso per andare al lavoro, perché soprattutto nel fine settimana, quando magari sto più tardi fuori, allora in bici è molto più comodo, sono indipendente, quindi quando finisco di lavorare magari non c'è nessun autobus che mi porta a casa, io in un quarto d'ora, 20 minuti con la bici ci arrivo, senza essere magari troppo stanca o senza farmi, non so, tre quarti d'ora a piedi, ecco, quindi è molto comoda e è molto ecologica anche come modo per spostarsi, credo sia la miglior cosa. E ci si mantiene in forma se tipo non vai in palestra come faccio io. Uso la mobike perché mi sono trasferita da poco e nel mio palazzo non c'è il cortiletto interno e quindi ho paura che me la rubino. Okay. E quindi questo. Prendi la bici abitualmente? Abbastanza, 4 volte a settimana, 5 volte più o meno. E la preferisci ai mezzi pubblici, all'automobile? Assolutamente sì, ai mezzi pubblici, ma anche all'automobile, perché molte volte per parcheggiare devo smadonnare abbondantemente. Allora, io prendo la bici, diciamo, come scelta ecologica principalmente, per raggiungere per comodità il lavoro in cui appunto vado giornalmente. Io ho preso la mobike, di recente preferisco andare in giro con la mia bici perché è più comoda. Per il globo, proprio il globo, quindi la bici la uso sempre. E come ti trovi in città con la Bene. Bici? Allora, la prendo quando devo raggiungere in modo più veloce i vari punti della città, e la prendo molto più spesso ultimamente perché per il Covid i mezzi pubblici sono troppo affollati e quindi preferisco andare in bicicletta. Allora, fondamentalmente sì, prendo la bici spesso perché comunque Bologna, cioè, si può girare benissimo sia a piedi che in bici, però per raggiungere i punti più lontani magari prendo la bici, quindi 2-3 volte a settimana la prendo. Poi c'è un aneddoto bellissimo dietro le bici a Bologna. La prima volta che sono stata qua, praticamente un tipo mi voleva rivendere una bici a 5 euro e da lì ho capito che mi sarebbe servita una bici a Bologna e che tutti l'avrebbero avuta. Ma sì, mediamente 4-5 giorni a settimana. E per quale motivo? No, in genere per andare al lavoro, ma se ho delle commissioni da fare sono abbastanza vicina al luogo in cui mi trovo, cerco comunque di prendere la bici. E la preferisci ai mezzi pubblici, quindi? Certamente, soprattutto in questo periodo che siamo afflitti dal Covid-19.